Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Eccoci, siete in contatto con il Groove Master Studio per l'appuntamento numero 272 del Soundcheck, la prova del suono di Radio 24. A tutti voi buonasera da Gegè Telesforo. Più volte nel corso dei nostri appuntamenti vi ho raccontato, abbiamo parlato proprio degli strumenti musicali, abbiamo raccontato proprio l'invenzione del pianoforte, della batteria, anzi lo abbiamo fatto ultimamente ospitando Roberto Villani, liutaio di batterie, che ci ha raccontato proprio come si costruiscono le batterie. Ebbene, oggi vorrei parlare di uno strumento che utilizziamo tutti, non solo musicisti, artisti, cantanti, speaker radiofonici e giornalisti che quotidianamente utilizzano questo strumento, ma è uno strumento anche di uso comune quotidiano, perché tutti noi, utilizzando il cellulare, parlando al telefono, utilizziamo il microfono. Ecco, oggi vorrei parlare di questo strumento meraviglioso che ha permesso l'invenzione del telefono e quindi della radio e quindi poi l'amplificazione stessa della voce degli strumenti per arrivare più lontano. Oggi vorrei parlare di questo strumento, ma anche di altro, con quello che io considero uno dei migliori ingegneri del suono del nostro paese, accreditato in Italia e all'estero e poi col tempo anche uno stage manager di fama internazionale. Quindi il gradito ritorno al Groove Master Studio del maestro sonoro Tony Soddu in persona. Grazie, buonasera a tutti, grazie a Gegè sempre per l'invito, che è un piacere. È un piacere mio averti. Sì, a un certo punto mi sono detto devo parlare del microfono, perché lo utilizziamo per fare radio, lo utilizziamo per fare i nostri concerti, ma poi siamo tutti abituati a utilizzando la tecnologia, ma anche gli elettrodomestici, a non chiederci come funzionano certe cose, e quindi diamo per scontato che una cosa debba funzionare e basta. È vero, e poi anche come tutte le macchine poi si rompono, anche basta che cascano per terra. Sì, io ti ho invitato perché proprio qualche giorno fa, quando ci siamo incontrati per motivi professionali, parlando proprio dei concerti e di come deve essere amplificato e ripreso un buon concerto, tu mi hai fatto scattare la lampadina ed è per quello che sei qui. Hai detto sì, tu puoi avere i migliori strumenti, anche un ottimo impianto, però se non hai dei buoni microfoni parliamo di nulla. È così. Certo, perché il microfono sta in cima alla catena della riproduzione, e non è solo una cosa tecnica, ma è quello che trasferisce sia il microfono che l'attacco diretto dello strumento per la registrazione oppure per l'amplificazione. È il trasferimento esatto di quello che succede musicalmente o con la parola oppure col cinema, col film, queste cose del genere. Ecco, un buon microfono deve essere anche utilizzato in maniera corretta. C'è una postura anche per l'utilizzo del microfono. Io noto che adesso le nuove generazioni fanno un errore fondamentale, lo dico subito, soprattutto i rapper, che forse tengono più all'atteggiamento che alla ripresa del suono. Che cosa fanno, maestro Soddu? Che chiudono con la mano il microfono. La capsula. La capsula, che è una delle cose che è contro il mezzo tecnico. Ecco, perché che cosa succede quando si prende un microfono in questa maniera? Che si modificano le caratteristiche per cui è stato costruito. Cioè, ogni microfono ha un suo carattere. Cioè, trasmette il segnale musicale o il segnale parlato con una sua identità. Allora, chiudendo con la mano la capsula, cosa si fa? Praticamente si sovverte tutto quello che il progettista, chi l'ha pensato, certo. Dice devo fare questo microfono perché debba andare bene. Chiudendolo va male, perché Però è più figo vedere uno che canta così. Certo, perché basterebbe fare un'impugnatura più grossa, magari lo prende lì. Però cosa succede anche? È anche un retaggio del passato, di quando le cose non funzionavano. I rapper andavano nei club o per strada per farsi sentire da magari degli speaker da 4 soldi. Avevano capito che avvicinandosi solo col microfono non ottenevano tutta quella spinta per le parole. Allora cosa hanno fatto? I primi si sono industriati. sbagliati, hanno preso il microfono chiudendolo, quindi modificando il tipo di risposta e guadagnando col segnale a tutta randa, cioè in pratica stringendolo sì, cambia, diventa più brutto, però diventa più forte, sì, perché in realtà quasi come cantare o nel loro caso parlare ritmicamente utilizzando un megafono esatto, il microfono come megafono. Va bene, che poi è stato il primo microfono il megafono, certo, per amplificare, certo, il suono della voce. Allora, visto che parliamo di rapper, ti voglio far ascoltare una rapper fantastica, si chiama Sarok DMC, che partecipa alla produzione del batterista Lil Jon Roberts, uno dei miei preferiti in studio di registrazione. Il brano si intitola Get Right, potentissimo qui al soundcheck di Radio 24. Beh, in questo caso la formidabile Sarok DMC, voce femminile super rap in questa produzione di Lil Jon Roberts, batterista super accreditato. In questo caso la nostra artista utilizza sicuramente un microfono a condensatore tipico di uno studio di registrazione di Los Angeles, perché parlavamo col maestro Tony Soddu, ingegnere del suono pluridecorato nel nostro paese, proprio dell'importanza del microfono e della cattiva postura che i ragazzi della nuova generazione utilizzano per tenerlo in mano, ovvero chiudendo con la mano la capsula. Una volta lo facevano i giovani rapper proprio per dare un po' più di forza al suono della voce, però la tecnologia adesso è migliorata, quindi adesso i sistemi audio vanno bene, anzi sono al top in questo momento, per cui chiudere con questa tecnica vuol dire rovinare completamente il messaggio che tu vuoi dare, anche perché tutto si intuba. Mentre la voce della ragazza registrata è una bomba, perché è registrata con un microfono sicuramente da 5-6 mila dollari, del top che ci può essere, senza bisogno di chiudergli la capsula. Ecco, questo è un errore, proprio perché cambia così il suono della voce. L'altro errore che fanno i giovani artisti, quelli che non sono poi abituati ad affrontare i palcoscenici attrezzati a livello professionale, è quello di puntare il microfono sugli speaker. Ecco, questo è un altro errore veramente banale che si fa, perché si crea il famoso effetto Larsen. Che cosa succede? Il feedback, cioè praticamente mettendo il microfono verso l'altoparlante si crea un loop, cioè il segnale che esce dalla cassa entra nel microfono, ritorna nell'amplificatore che non ce la fa e per cui innesca, cioè praticamente perde il controllo del microfono e quindi è una cosa inutile. E quindi poi l'effetto è un fischio terribile che dà fastidio proprio ai timpani, non solo del pubblico ma anche di alcuni musicisti. Magari se ci sono anche musicisti in cuffia in una ripresa professionale, allora lì vengono fuori proprio mazzate. Perché non si capisce più niente. Il cantante rischia di essere menato dal batterista o dal bassista, di solito sono quelli della ritmica che sono in cuffia. Allora, andiamo a Daniel Crawford con Home, e questa è una voce veramente pazzesca. Tony, un falsetto meraviglioso per Cleveland P. Jones. Soundcheck. Il suono della musica. La voce di Emily King in Distance qui al soundcheck di Radio 24, in questo appuntamento con il microfono come protagonista. È nostro ospite, lo ripeto, il maestro Tony Soddu. Allora, Tony, fino alla metà degli anni 30, guarda, ho preso degli appunti, vennero usati i microfoni a granuli di carbone, e in quell'epoca i microfoni venivano chiamati trasmettitori e vennero sviluppati in modo indipendente in Inghilterra da David Edward Hughes e negli Stati Uniti da T.A. Edison, che dovette affrontare nel 1877 una lunga disputa legale per il riconoscimento della paternità. I microfoni rappresentarono la vera grande svolta nella storia del telefono e poi della radiodiffusione. Avevano caratteristiche acustiche molto limitate per un uso musicale, ma data la loro limitata estensione in frequenza erano adatti a riprodurre la voce umana. Quindi significa, ecco, questi sono decenni storici, tanto per raccontare il microfono, e ancora oggi non tutti i microfoni possono essere utilizzati per fare tutto, giusto? Esatto, qui spiega proprio il carattere del microfono, che fecero i microfoni per la voce, quindi la cosa principale che devono affrontare, e non per gli strumenti. Per cui ogni microfono che venne creato al tempo, mi ricordo anche BBC fece dei microfoni da Neumann, credo, che adatti per la voce del re. Infatti c'è The King Collection, cioè che hanno i microfoni tagliati per Principe Edoardo, per il re, per cose del genere, che in tempo di guerra trasmettevano i comunicati e i microfoni erano tagliati sulla voce di chi parlava. Esatto, e quindi ci sono microfoni oggi che vengono utilizzati, parlando proprio poi di musica, per la ripresa della sezione archi, i fiati, strumenti molto sonori come la batteria, quindi microfoni che hanno caratteristiche diverse che gli ingegneri del suono utilizzano per le riprese audio dal vivo e in studio. E anche qui ci sono dei parametri diversi, giusto? Certo, cioè la parte tecnica, che è importante, le caratteristiche che tu leggi che ti dà la casa, però la tradizione orale da ingegnere del suono all'altro è quello che ha portato alla specializzazione di oggi, cioè le prove sul campo dei determinati microfoni hanno fatto sì che nella registrazione, nel live, fossero utilizzati alcuni microfoni invece che altri. Ecco, quindi per essere poi concreti, in studio, quindi in ambienti che sono stati costruiti per la ripresa del suono, quindi che non hanno tanti reverberi o hanno il reverbero naturale giusto, quindi un suono più asciutto e via dicendo, si utilizzano microfoni che hanno una sensibilità maggiore. E i microfoni che da sempre hanno la sensibilità maggiore e quindi un utilizzo di frequenze più ampio sono i microfoni a condensatori. Oggi i microfoni si possono dividere in due grandissime categorie. Ecco, una volta c'erano i microfoni a carbone, ma poi furono inventati i microfoni a nastro per arrivare poi alla grande invenzione del microfono a condensatore, e oggi esiste anche il dinamico. Qual è la differenza fra questi due microfoni? È proprio la costruzione del microfono. Il microfono a condensatore ha una, lo dice il nome, cioè due armature che vengono polarizzate, si dice, con una corrente 48 volt di solito, e l'aria che colpisce le lamelle fa vibrare questo campo che si viene a creare tra queste due armature, e viene trasmesso come segnale elettrico a un preamplificatore interno, perché è importante. Il microfono a condensatore ha un preamplificatore interno perché deve elevare il segnale molto basso per portarlo al livello delle apparecchiature che poi verranno usate per registrare. Ecco, poi invece il microfono dinamico è quello che utilizziamo tutti noi sul palco, quello da combattimento, da battaglia. Certo, che funziona al rovescio di un altoparlante. In pratica, cosa fa il microfono dinamico? Ha una membrana sottilissima, leggera, e un equipaggio mobile, una bobina intorno costruita. L'aria colpisce questa membrana facendo vibrare a seconda delle frequenze e si viene a creare anche lì un segnale elettrico molto, diciamo, basso, ma più alto di quello di un condensatore, che viene applicato all'apparecchiatura per l'amplificazione. Formidabile voce, ma anche un eccellente musicista, se la suona e se la canta, questo ragazzo inglese Jacob Collier con Close to You di Burt Bacharach al Soundcheck. Soundcheck. Il suono della musica. Jesse Boykins III con Plain al Soundcheck di Radio 24. Mi piace molto il suono che è riuscito a creare questo artista, ancora non molto conosciuto da noi, ma negli Stati Uniti si fa notare nell'ambiente, insomma, che va dall'hip hop, R&B e il jazz contemporaneo. Questo è il Soundcheck di Radio 24. Oggi parliamo del microfono come strumento, approfittando anche della presenza di uno dei nostri migliori amici, l'ingegnere del suono Tony Soddu, che io conosco, mi dispiace dirtelo, credo da una trentina d'anni. Noi ci siamo incontrati la prima volta nel settembre del 1987 ed eravamo, ti dico anche la location, è facile per me ricordarlo, probabilmente anche per te, lo studio 1 della RAI in via Teolada, perché c'era in corso l'allestimento di quella che sarebbe diventata poi nel giro di un paio di stagioni la trasmissione più importante di musica mai realizzata in televisione a livello internazionale, che era Doc. Insomma, un tempo tu eri un ingegnere del suono specializzato nel suono del palco, e poi col tempo sei diventato accreditato in tutto il mondo e oggi uno stage manager importante. Quindi, lasciando per un attimo perdere la storia del microfono, insomma, che cosa deve fare un ingegnere del suono per guadagnarsi la pagnotta? Da cosa si parte? Si parte giusto dai microfoni, si parte, cioè dalla scelta del microfono, che è quello che ti risolve la situazione. Cioè devi capire in anticipo che cosa ti servirà prima di partire, perché il problema di chi fa il suono, di chi riprende il suono, è quello di avere in testa la soluzione giusta nel momento giusto, perché non hai tanto tempo. E abbiamo la stessa scuola, no problem, just solutions. Sì, è quello, infatti, per quello che comunque in questo lavoro poi continui negli anni, perché fornisci soluzioni dal punto di vista tecnico che funzionano dal punto di vista artistico. Quindi se tu hai davanti una voce maschile o una voce femminile, devi fare subito una scelta prima ancora di cominciare ad attaccare le macchine. Quindi per una voce maschile sceglierai un tipo di microfono, per una voce femminile sceglierai un altro tipo di microfono, che poi al test potrai anche cambiare, però di partenza già fornisci un 50% di soluzione per quello che è o l'amplificazione o la registrazione. Sì, e poi l'ingegnere del suono deve essere bravo soprattutto nella gestione di quei concerti, un po' come i festival jazz, no? Perché se hai in dotazione l'impianto che ti è stato messo a disposizione da una produzione per seguire una grande tournée pop, le cose si agevolano perché ogni giorno puoi migliorare, hai la possibilità di migliorare il suono. Invece se affronti strumentazioni e impianti diversi ogni giorno, allora lì bisogna avere un buon orecchio e avere esperienza. Questo aiuta, infatti, cioè il fatto di arrivare sul posto con un'idea di quello che dovrai affrontare, perché la scheda tecnica del festival ti informa su quello che troverai. Però tu, come operatore, devi trovare il modo di arrangiare le tue conoscenze, quello che vuoi ottenere, con il materiale che è sul posto. Lo possiamo dire che in Italia ancora si affrontano situazioni di concerti e di festival con strumentazioni non all'altezza dell'artista, magari o comunque impianti audio e luci proprio obsoleti. Sì, perché è un po' alla leggera, si dice, no? Perché un musicista e un tecnico che lavora nel suono è dipendente fortemente da quello che troverà o da quello che deve utilizzare più che da quello che troverà. Per cui diciamo che nei tempi moderni il tecnico del suono viaggia con al seguito con alcune sicurezze, qualche microfono della voce principale, qualche DI box, qualche macchina esterna che gli permette di avere un risultato in breve tempo che è quello richiesto dalla persona con cui viaggia, che deve servire, che deve supportare. Però succede ancora, io insomma faccio questo lavoro da oltre 35 anni e mi ritrovo ancora oggi, pur avendo una storia alle spalle, ad affrontare situazioni con batterie, con pelli usate per 20 anni, microfoni con le capsule rotte, oppure monitor a terra tutti diversi, insomma un disastro. Quindi per favore, lo dico ai promoter, agli organizzatori di concerti, fateci trovare strumenti adeguati. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Dopo l'informazione di Radio 24 siete di nuovo collegati con il Groovemaster Studio. Oggi parliamo del microfono, incredibile invenzione che ha modificato anche l'utilizzo della voce. Ne parliamo con l'ingegnere del suono Tony Soddu. E sì, dicevo, ha modificato l'utilizzo della voce, perché quando non esistevano i microfoni per raggiungere la platea, parlo anche proprio degli anfiteatri romani e greci, il cantante o l'attore doveva impostare il suono della voce. E invece oggi i cantanti contemporanei, magari anche con una voce delicata e suadente, riescono ad arrivare lontanissimo proprio perché hanno a disposizione il microfono e quindi grandi impianti di amplificazione. La BBC, e ne hai parlato prima Tony, è stata uno dei massimi leader nel mondo dell'audio e ancora oggi rappresenta un punto di riferimento in questo specifico settore. Negli anni 30 il costo dei microfoni era molto alto. All'epoca, nel 1931, una coppia di microfoni e un amplificatore sarebbero costati alla BBC, e quindi non al pubblico, 130 pound, ovvero 6.500 pound, valore del 2009. Oggi invece, quindi una cifra impressionante. Contando che dovevano fornire tutti gli studi poi, non è che ce n'era uno solo. Esatto, e poi alla BBC che li costruiva. anche. No? Quindi li doveva costruire. Non erano venduti al pubblico perché non c'era l'utilizzo contemporaneo. Si trovavano poi subito dopo, si sarebbero trovati negli studi di registrazione, però insomma adesso che tutti possiamo avere un piccolo studio a casa, possiamo acquistare il microfono adatto al nostro utilizzo. C'è da fare un distinguo però. Cioè, però tipo... perché oggi tutti i microfoni da 20 euro esistono, sono dei microfoni che però non sono... assolutamente, sono microfoni perché funzionano, li attacchi e vanno, però da lì a dire che trasferiscono quello che dovrebbe essere la performance, la voce in modo giusto, corretto, professionale, ne passa e quindi insomma possiamo investire 20 euro ma anche arrivare a cifre impossibili, a cifre molto alte. Però secondo me se ci fermiamo nel mezzo per la partenza, per avere il, diciamo, l'inizio nel mondo del microfono professionale, è meglio spendere sui 100 euro e si ha già un microfono di tipo da lavoro, da professionista. Allora ci sono vari microfoni, abbiamo già chiarito che tecnicamente ci sono due grandi famiglie, quello dinamico e quello a condensatore. Poi ci sono vari microfoni, cioè il microfono, quello che viene utilizzato dagli speaker in radio, di solito è un condensatore. Poi ci sono i microfoni, quelli che vediamo in televisione, come si chiama? Il lavalier. L'archetto. L'archetto, cioè un microfono che viene utilizzato quasi ed esclusivamente per la voce parlata. Certo, giusto? Televisivo. Sono microfoni a electret tipo condensatore, perché ci sono delle famiglie, nella famiglia si distinguono, perché sono di piccole dimensioni e servono a prendere, sono invisibili alle telecamere, oppure l'archetto non è più invisibile, però ti dà la presenza necessaria in uno studio dove c'è tanto chiasso, come oggi che si parla uno addosso all'altro. L'archetto ti permette di avere il dettaglio anche televisivo. Sì, e per alcuni artisti anche l'utilizzo delle mani non lo devi certo, tenere in mano, e quindi puoi anche ballare e fare spettacolo. E per questo motivo è stato inventato anche il radiomicrofono. Soprattutto che oggi è in grande auge, diciamo. Esatto, per gli artisti. Allora, detto ciò, io direi di tornare alla musica, mio caro Tony, e ti vorrei proporre un artista di New York, si chiama Sarah Elizabeth Charles, il brano è White and Blue, qui al Soundcheck. Soundcheck, il suono della musica. Uno dei rapper più amati e considerati oggi negli Stati Uniti, ma anche in Europa, sta facendo un bellissimo percorso discografico. Kendrick Lamar con l'album To Pimp a Butterfly, qui al Soundcheck di Radio 24. Nostro ospite, l'ingegnere del suono Tony Soddu, per parlare dello strumento microfono. Abbiamo già raccontato diverse cose, Tony, ma c'è un piccolo consiglio che noi vorremmo dare ai professionisti, ai giovani cantanti, ai professionisti in genere che utilizzano il microfono tutti i giorni, ovvero quello di portare con sé un microfono personale, per due motivi principali. Quali sono? Uno, perché ti dà il risultato che tu cerchi, cioè il fatto che usi il tuo microfono che hai già diciamo utilizzato in passato, per cui sai che funzionerà così, va bene per la tua voce. E secondo, un po' come i musicisti, trombettisti, sassofonisti utilizzano i loro strumenti. Certo, anche l'amplificatore della chitarra, un chitarrista sceglierà un ampli invece di un poi altro. Poi comunque il microfono è più comodo, lo metti in valigia, certo, senza problemi. È veramente portatile, c'è una cosa che non pesa. Se non fosse niente, che poi in aeroporto ti fermano, perché vedono questo pezzo di metallo, potrebbe essere un'arma. Però vabbè, andiamo avanti. Secondo motivo. Secondo motivo, un motivo igienico, semplice, perché stando di fronte al microfono, parlando del cantante, e quindi chiaramente parla, canta e lo sputazzo esce fuori sempre per forza, quindi si incrosta il microfono, si incrosta, non è che si incrosta di una cosa, guarda, esterna. Io fortunatamente saranno più di 20 anni che utilizzo microfoni personali, poi li cambio perché c'è l'evoluzione, no? Poi si rovinano, tu lo sai bene, ma mi è successo più volte di trovarmi a affrontare situazioni e di avere in mano, sotto al naso, microfoni veramente puzzolenti, incrostati di saliva, incrostati crostazioni salivose terribili. È terribile, mi viene in mente un aneddoto di tanti anni fa, quando ero in tour con Giorgio Gaber, negli anni 90, quindi il teatro canzone, e lui utilizzava molto bene il microfono radio, per cui era libero di andare in tutto il palco, e le repliche erano tantissime, si parlava di 150 repliche più le prove, per cui il microfono dopo la 50esima replica cominciava a non rispondere più bene, cioè non aveva più lo stesso suono, perché tutte le sere, lui era molto diligente, utilizzava la voce in modo corretto, impeccabile, preciso, impeccabile. Certo. Allora dopo un po' diceva, Giorgio, guarda che il microfono non funziona più bene. Dice, ma com'è possibile? Nuovo, no? Il parapì, che sarebbe una, diciamo una protezione della capsula, era ormai saturo di chiaramente di salive, di varie cose, di umidità. Allora veniva, noi avevamo quella di scorta, quindi sostituivamo il parapì, così chiamato in gergo, e mettevamo a bollire nell'acqua distillata quella vecchia, in modo da pulirla, e l'asciugavamo col phon, così eravamo sicuri che il microfono... Ma questo è un consiglio che vogliamo dare, ecco, per esempio qua, se nel mio studio abbiamo i miei microfoni, sono più o meno garantiti. Io per esempio oggi sono leggermente raffreddato e quindi sarò costretto a fare un lavaggio e a disinfettare il tutto fra pochissimo. Che cosa possiamo utilizzare per disinfettare i nostri microfoni? Acqua distillata per forza, perché altrimenti l'acqua del rubinetto lascia il calcare. Certo, non è che bisogna mettere il microfono nell'acqua distillata, bisogna smontare la retina. Smontare la retina e mettere a bollire la retina, non il microfono, chiaramente. E poi in tournée si utilizzano degli spray. Gli spray, ci sono degli spray antisettici, mi ricordo che noi compravamo in farmacia uno. Questo lo consigliamo anche ai nostri colleghi che sono negli studi di Roma e di Milano, ogni tanto mettete a bollire la ghiera del microfono e il parapì di spugna, perché il primo speaker raffreddato poi... Certo, e poi anche emana un profumo ammorbidente. Di coccolino. Va bene, D'Angelo con Another Life al Soundcheck. Can you hear me? Soundcheck, il suono della musica. La giovane voce di Milan con una sua composizione intitolata Lime, che noi abbiamo tirato giù da Bandcamp o SoundCloud, non ricordo bene, ma io sono molto attento alle nuove produzioni, andando a sbirciare proprio in questi due siti di riferimento per i giovanissimi artisti contemporanei. L'ingegnere del suono Tony Soddu è nostro ospite qui al Soundcheck nel Groove Master Studio per parlare di musica e per parlare soprattutto dell'utilizzo del microfono, strumento del quale abbiamo già raccontato diverse cose. E oggi Tony lavora nel suo home studio, dove ti trovi tu? A Piombino, giusto? Sì, in campagna, vicino Piombino. A Piombino, poi segui produzioni discografiche utilizzando studi più importanti e continui a fare il sergente maggiore sui palcoscenici di tutto il mondo come stage manager e come ingegnere del suono. Un lavoro faticoso, complesso e che... tra l'altro è stato regolamentato da un po', bisogna essere sempre omologati per salire su un palcoscenico, soprattutto durante la fase della costruzione, importante. Certo, sì, perché il palco è considerato un cantiere prima delle operazioni di spettacolo, per cui è accomunato a un cantiere edile, per cui c'è costruzione di metallo, cioè tavole, cose del genere, per cui ci vuole l'abbigliamento di sicurezza, tutto quanto. Dopodiché, quando si è sul palco, si fa lo spettacolo e durante lo smontaggio bisogna rivestire questi panni di sicurezza. Poi, ecco, tutti voi che fate questo lavoro, cioè gli operatori del settore, tecnici, facchini, quando salite su un palcoscenico dovete avere l'omologazione e fare anche dei corsi di aggiornamento su questo. Per forza, perché sono necessari più che altro dal punto di vista della legge, ma sono necessari soprattutto per il lavoro che svolgi. Devi sapere che oggi c'hai 40 tonnellate sulla testa, che non c'è più il tettuccio col telino, cosa del genere. Quindi lo spettacolo oggi è un'industria che utilizza macchine pesanti e complicate, per cui bisogna essere al corrente di quello che la tecnologia viene utilizzata oggi. Qual è lo spettacolo più complesso che hai servito negli ultimi anni? Quello più difficile? Diciamo che l'ultimo in ordine di tempo è quello di Tiziano Ferro. Tiziano Ferro è uno spettacolo complesso anche per un artista internazionale, in quanto aveva una una regia determinata, cioè quindi un utilizzo di tecniche LED a 3D, lui volava, spariva nella botola, esce da quella parte, corre dall'altra, il ponte che si sposta, cioè uno spettacolo complesso adatto ai tempi che... e ai biglietti che si pagano poi anche certo, legato a certo. questo, no? E ha avuto diciamo un grande successo perché come autore Tiziano Ferro è diciamo uno degli autori giovani che è più che attualmente raccoglie più pubblico. Ecco, da anni tu sei anche il responsabile del palco del primo maggio e anche quella è una bella esatto. spacchinata in sì, diretta sì, sì. anche televisiva, cambi di palco frenetici, non so quanti artisti certo, quante perché... band, quanti strumenti, quante ore di lavoro? 26, i gruppi sono tra i 26 e i 29 al giorno, le ore di trasmissione poi sono tutti 8. Con esigenze diverse. Tutte completamente diverse uno dall'altro, raramente capita un gruppo dietro l'altro che ha la stessa strumentazione, anzi per avere la proposta più diciamo variopinta sono accomunati i gruppi folk, gruppi rock, gruppi rap, queste ecco cose. E quindi si fanno grandissime riunioni perché a volte poi quando c'è la televisione di mezzo tutto si complica, gli autori non si rendono conto che fare l'ordine di uscita diventa importantissimo considerando gli aspetti tecnici. Allora quando ci sono queste patate bollenti, che cosa fanno? Chiamano Tony Soddu per risolvo problemi, no? Sì, certo, che mi viene la febbre a 38 dopo che ho finito. Certo, devi andare subito in vacanza per un mese. Allora, da Milan a Hiatus Keyote, By Fire al Soundcheck. Soundcheck, il suono della musica. Sassofonista ma anche polistrumentista e producer Daryl Reeves con Dreamy, brano che troverete in questo mixtape dedicato a J. Dilla intitolato The Dilla Aquarium. E siamo ai saluti, chiudiamo questo appuntamento del Soundcheck. Ringrazio l'ingegnere del suono Tony Soddu. Anzi Tony, vorrei fare una cosa, vorrei approfittare della tua presenza per fare i complimenti a un tuo collega giovanissimo, 35 anni, Luca Barassi, napoletano, che è diventato docente, posso dirlo, di ingegneria del suono negli studi importantissimi Abbey Road, quelli lì a Londra, quelli con le strisce pedonali calpestate dai Beatles in quella famosa copertina. Che cosa ha combinato Luca Barassi? Certo, Luca è una persona che sicuramente ha grande passione per la musica e ha voluto cimentarsi con la parte tecnica, quindi... si è iscritto, da come ho letto, alla School of Audio Engineering, che sta a Londra e ha sedi in tutto il mondo, Melbourne, Roma, Milano, scusa, e New York, Los Angeles, e, con profitto, per cui la scuola stessa gli ha offerto un posto di insegnante. Quando la società è stata venduta a SIA, Universal, che gestisce Abbey Road, ha chiesto a Luca di tenere i corsi di Audio Engineering ad Abbey Road, che è un incarico prestigioso, importante, perché lavora in una delle strutture storiche del suono professionale che ha creato la musica moderna con i Beatles, per cui dal punto di vista dell'investitura è una grande cosa, dal punto di vista della passione è un valore aggiunto perché si trova nella struttura principe dell'audio professionale. Quindi in Italia non solo abbiamo dei formidabili musicisti ma anche dei bravissimi ingegneri del suono, e oggi tu li rappresenti qui al Soundcheck di Radio 24. Grazie a Tony Soddu, grazie a tutti voi. Noi però ci risentiamo domani alle 19:15 per il Soundcheck nella versione un po' più jazz, e quindi a tutti voi buona serata e buona musica da Gigi Telesforo con Daryl Reeves. Sì, usiamo ancora lui. Grazie Tony.